Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti i nostri ascoltatori un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Oh, caro Antonio, siamo qui anche stasera per tenere un po' di compagnia ai nostri ascoltatori con un ospite graditissimo e un amico, perché ormai penso che qui in radio sia venuto tante volte e ormai è un abitué, diciamo, dai. Il nostro salotto. Ecco, allora fai le tue... Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, proteste, suggerimenti ed altro, che è il 346 23 20 033. Ricordiamo sempre che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Eh sì, saluti ai nostri due angeli custodi, tutti e due. Esattamente. E adesso, come annunciato prima, presentiamo l'ospite graditissimo. Ho dovuto tirarlo per i capelli perché gli ho detto: dai che dobbiamo presentare questo tuo libro, eh? Vabbè, comunque ci siamo decisi e adesso è qua. Allora, caro Emilio Gallina, buonasera. Buonasera Emilio. Grazie, buonasera a tutti. Bentornato, sai Emilio. Mi fa piacere. Ecco. E approfitto per dare un saluto anch'io a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici e augurando loro un buon ascolto. E visto che abbiamo iniziato da poco l'anno, faccio anche gli auguri un po' tardivi, ma spero siano graditi lo stesso. E cosa vuoi? Hai appena detto, sì, mi considero privilegiato, sono parecchie volte qua da voi, sì. E ci ritorno sempre molto volentieri, sia per presentare qualcosa di mio, come in questo caso, e sia per eventualmente per parlare di altri amici poeti, o per farne memoria, sai... Mi trovo tra amici e mi trovo bene. Certo. L'ultima volta sei venuto col signor Cocchetto. Ah, con Marcello. Marcello Cocchetto. Che salutiamo, sì. Salutiamo. Rimandiamo un saluto. Sì. E ieri era San Marcello. Ah sì? Oh, perfetto. Giulio, il piccoletto, il nipote. No, è San Marcello oggi. Ah sì? Cavolo, mi ero dimenticato. Quindi abbiamo fatto gli auguri. Conosce le tue amicizie, Giulio? Sì. No, avevo visto il calendario. Ho capito. Allora, vuoi presentare così un po' il tuo resto di giorno, un pochino il libro, dire due parole? Se insisti, io direi di sì. Ecco, questo resto di giorno è praticamente un titolo un po' insolito, però significativo. E cosa vuoi? Siccome le primavere ormai che ho riposte nel cesto sono abbastanza, e con questo spero di aggiungerne altre, sai. Speriamo. Non dico quante, ma quelle che mi sono riservate e cercherò di custodirle bene. Ah, io mi sarei prefissa un anno, ma sai. Ben mai mettere limiti alla provvidenza. No, appunto, ed è appunto. Bene non saperlo, perché altrimenti si diventerebbe matti, sì. A aspettare il momento. E come ti dico, senza fare il tragico, appunto, il tempo che mi rimarrà, ecco, cerco un po' di viverlo meglio che posso, con l'affetto e l'amore di mia moglie, la Ketty, famosa. Che salutiamo, naturalmente. Salutiamo. Ecco, non l'abbiamo citata prima, ma era implicita. Grazie. E anche l'amore dei tuoi amici. E certo, infatti poi dell'affetto dei miei, appunto, quattro figli e dei nipoti, e anche le nuore, perché sono tutte molto care. Bene. Per dire. E questo resto di giorno nasce appunto da questa realtà di primavera. Come dicevo, ne sono trascorse abbastanza, non diciamo non quante. Non diciamo, ma... no, dai. Però, sai, bisogna fare anche un punto della situazione e quindi tirare un po' le somme. Allora mi è venuto, questo era nel 2008, era un pezzo che ci lavoravo, di raccogliere praticamente delle poesie che ho scritto, che non erano raccolte in Galaverna, la mia prima opera, e quelle che sono nate successivamente, che direi sono anche abbastanza, e le ho raccolte e uscito con questa pubblicazione proprio per così dare testimonianza di un vissuto che altrimenti sì, dice, ma agli altri cosa interessa? E qui direi fare una parentesi, perché un amico che mi ha spinto a uscire in punta in pubblico, diremo così, mi diceva, sì, non lasciamo perdere, diceva che tenerle nel cassetto le poesie o i racconti, se fossero stati racconti, sarebbe stato male, perché potevano essere di, come dire, di aiuto, di conforto, di confronto con gli altri. Per cui è nato questo volume. E io spero che... spero. È piaciuto, è andato molto bene, ho avuto delle lusinghiere, come dire, attestazioni e commenti anche da amici sparsi un po' ovunque, dalla Sicilia al Piemonte, e quindi mi ha dato molta soddisfazione. Comunque, sì, io l'ho molto gustato, se devo essere sincera. Beh, ti dirò che questo Resto di giorno si differenzia da Galaverna, la mia prima opera, appunto, per uno stile diverso di scrittura, tant'è vero che mia moglie me l'ha un po' contestato questo nuovo modo di scrivere, dicendo sì, massa stringa, massa non è più la tua poesia. Avrà anche avuto ragione, adesso non dico. Io ricordo una telefonata di Gian Domenico Mazzocato, il nostro scrittore trevigiano. Sì, che è stato anche da che noi. Gliel'ho mandato, su una notte l'ha letto tutto e mi dice: ma sai che pensavo non l'avessi scritto tu? Ho detto: ma perché Gian? Perché è talmente, come dire, essenziale. La maggioranza delle poesie. Non mi pareva, quasi, sì, non mi pareva opera tua. Questo mi fa piacere. Una nuova perché... fase, diciamo. Sì, esatto. Bisogna sempre, se possibile, rinnovarsi. Io l'ho trovato molto, molto umano, molto pieno di pathos. Sì, ma vedi, a parte che i temi che ritornano poi sono sempre più o meno gli stessi, sia in dialetto, perché come tu sai, sì, prevalentemente io scrivo in dialetto, poi ne parleremo un attimo. Sì. E quindi sono quelli del tempo che passa, sono quelli delle emozioni, degli amici, dei luoghi, di tante cose, di tante piccole cose che fanno un po' simpatica, accettabile la vita. Allora, ascolta Emilio, prima di entrare nel vivo della trasmissione, cioè poi leggeremo il tuo curriculum. Anche. Ecco. Allora ci ascoltiamo una canzone, cosa dici tu? Visto che la buttiamo in canto, dai. Ecco, visto che parliamo di poesia, ascoltiamo la canzone Poesia cantata da Riccardo Cocciante. Tutto questo è Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piangi nel buio per te. E dovresti parlare, ma non sai cosa dire. È finito l'amore, anche questo è poesia. Siamo di nuovo in studio. Allora Emilio, ti lasciamo lo scettro. Allora decidi tu che cosa facciamo. Leggiamo il tuo curriculum prima? Facciamo una partita a scopa. Oltre sette. Allora Antonio, leggi allora, tu. Allora leggiamo alcune notizie così salienti, sì, riguardo al nostro amico Emilio. Non avrebbe bisogno di presentazione, ma ogni tanto lo ricordiamo per i nostri nuovi amici, quelli che ci seguono da lontano. Grazie, grazie. Ascolterò Emilio, volentieri. Ecco, Emilio è nato a Treviso alcuni anni fa, dove risiede naturalmente tuttora. Fin dai tempi dell'importante esperienza di lavoro, primi anni 50 presso la libreria di Piero Dall'Asta di Treviso, si è interessato al dialetto locale che parla da sempre, agli usi, ai costumi e alle tradizioni della città e dell'intera Marca. Promotore editoriale scolastico dal 61 al 98, ha cominciato il suo percorso poetico in lingua ed in vernacolo verso la metà degli anni 70, entrando a far parte del circolo dei poeti dialettali trevigiani Amici della Poesia. Fa parte del consiglio della Società Iconografica Trevigiana e collabora con altre associazioni culturali cittadine. Nel febbraio del 95 è stato ospite dell'evento editoriale Il Libro Invisibile presso la Fondazione Villa Benzi Zecchini di Caerano San Marco, Treviso. Evento determinante per le sue future pubblicazioni poetiche in lingua ed in vernacolo. Nel 98 ha pubblicato Galaverna, la sua prima silloge in lingua, vincitrice del Premio Internazionale di Poesia Agenda dei Poeti, Milano 1999. Nel giugno del 2000 esce la raccolta poetica in vernacolo urbano di Treviso, Campane Pardò, ristampata nel 2006, silloge dedicata a momenti della vita di coppia. Nel 2002 fa seguito per i tipi di Piazza Editore, Ametera, Amezente, sì, e nel 2004 Scondicuco, che Nascondino bello in italiano. Nel 2008 per le edizioni del Leone ha pubblicato la silloge poetica in lingua Questo resto di giorno e Nonni, una mini raccolta dedicata ai nipoti. Nel 2010 esce Me pareva appena ieri, Piazza Editore, poesia in vernacolo trevigiano, silloge che continua l'ideale percorso poetico dedicato alla terra trevigiana, alla sua gente e alla sua armoniosa parlata. Collabora con riviste letterarie locali e nazionali, ha recensito e presentato opere di altri poeti. È stato ospite in diversi incontri culturali ed ha realizzato importanti eventi sempre dedicati alla terra trevigiana e alla città. Un canto per Treviso, col dottor Giuseppe Frigo, Treviso che non c'è, col professor Fabio Sandrini, La montagna e il silenzio e Lungo valli minute, con Franco Vivian. Sue poesie in lingua ed in vernacolo sono presenti in varie antologie e riviste letterarie e sono state premiate e segnalate in numerosi concorsi regionali e nazionali. Ecco. Bene. Allora Emilio, poi, niente di me un po', caspita. La sostanza è questa. Sei una personalità. E adesso cominciamo a dare un saggio delle tue poesie, direi, di questo resto di giorno. Direi di sì, visto che siamo qua per questo. Bene. Giustamente. Allora, Emilio. Comincio io? Certo. E comincio con Questo resto di giorno, che è la poesia che ha dato poi il titolo, la raccolta, la oponima, come si dice? Si dice opomina, una roba del genere. Questo resto di giorno, tremule foglie ai rami, molte han ceduto a malie di vento, Seduto sul limitare del giorno, dimentico l'ora. Smarrito nell'infinitudine, ascolto arcani silenzi. Assorto, stranito, inseguo mute rette d'aereo, bizzarro incendio di cirri e tardivi voli per l'ultima cena. Da sparse pievi, ovattato mi giunge il dindondar serutino dell'ave, docile al labbro d'infanzia una prece. In questo resto di giorno indosso ricordi e speranze. Attendo stelle a rischiarare la mia notte. Lontani, dell'assiolo il verso e il rumore di giorni. Bella. Vado avanti io? Va bene, prego. Ci alterniamo. Meridiana. Solare andare di ore. Alto nel muro lo stilo adombra al quadrante numeri, simboli, l'incedere silenzioso del tempo. Di qua il subito passato, oltre l'imminente futuro, fuggevole ombra, il presente. Del febbraio 2006, lunario. A giorni di erbe amare il lunario, di selvatico miele, fragranza di pesca e di frutti di bosco. A falci di luna il lunario, mietono giorni e la fanno nuova o piena, maturano stagioni. Il lunario ha segni segreti per campi e orti. L'esperto occhio legge, sa e provvede nell'esatto tempo a semine, cove e raccolti. Nel mio lunario un rosario di lune e di giorni, uno ad uno li reciterò come mi sarà dato. Seconda terna. Ci sono anch'io adesso. Sì. Con i miei 70 anni, questo l'ho scritto appunto a 70 anni. Bene. Ne è passato qualcuno in più. Beh, dai, non dovrei correggere. Non lo diciamo. Non è cambiato più o meno niente, appunto. Solo che sono aumentati gli acciacchi. Vabbè. I miei 70 anni. Me li ritrovo tra le mani d'improvviso. Variegato mazzo di umili fiori di campo. Stretti al petto, assaporo volutà di ricordi. I miei 70 anni. Li ho raccolti lungo irripetibili stagioni di vita, uno ad uno, senza contarli. Sono là nello specchio, mi guardano sornioni. Sorrido, faccio loro l'occhiolino. Me lo fai ancora? No, ogni tanto mi dico un sacco di parole. Mi dico parolacce. Dai, non dobbiamo dirci parolacce. Allora, foto. Dall'album aperto il passato. Mi rivedo tra volti noti, altri sconosciuti o perduti al ricordo. Tempo presente nei volti mutati dei compagni di allora. Mi scopro segnato dal tempo. Io, come loro, nel volto il passato. Di domeniche al meriggio. Sovente tornano memorie di meriggi assolati, di domeniche estive, dopo il cantar dei salmi, ai vesperi odorosi di incenso e benedizione. Meriggi sofferti in dolorosa solitudine, nel lento incedere delle ore a sera, e patiti per declinati inviti di solerti compagni, Gaia brigata, al girovagar spensierato per sagre e osterie, o tentar le dolci compagne ai giochi d'amore primo. Svago a me negato per segreta indigenza e necessità prime al quotidiano vivere. Attesa liberazione era il dì feriale. Ed era proprio così quei tempi, piuttosto pochi soldi, ce ne sono pochi anche adesso di soldi, sì, visto che però all'epoca giustamente era veramente ci si era abituati alla privazione, non ci pesava neanche qualche volta, cioè si era sereni, ecco, tutto appunto, sommato sereni. Poveri ma sereni, eravamo sereni, esattamente, sì. Quello che manca oggi. Adesso Emilio, adesso cosa dovrei cosa dire, cosa dici tu, da dove è nato il mio scrivere di poesia? Il mio scrivere di poesia credo che risalga parecchi anni fa. Lo debba a due o tre fattori importanti, vale a dire, un primo è quello della frequentazione delle scuole, dove ho trovato degli insegnanti straordinari che mi hanno fatto innamorare un po' della lettura e della poesia. Poi un'altra esperienza importante che mi ha affinato un pochino, io studi non ne ho fatti perché ho dovuto andare subito a lavorare, e la mia esperienza di commesso di libreria da Dall'Asta, che allora si trovava in via Canova. Un'esperienza fondamentale. Sì, direi proprio di sì, perché lì ho conosciuto un sacco di gente importante della cultura trevigiana, perché era un po' un cenacolo quell'antro di libri, perché era una stanza praticamente, ma però passavano di là un sacco di persone, vorrei anche citarne ma non vorrei lasciare fuori qualcuno, anche se credo che quello ormai non si offenderebbero più, perché purtroppo io ho conosciuto il signor Toresini, che veniva appunto, anche lui lavorava, vendeva enciclopedie, quelle cose. Sì. L'hai conosciuto? Sì, cos'era, per la UTET? Per la UTET, sì. E poi un'altra, diremo così, un momento molto importante, un'altra della mia vita, è stato quello del lavoro che sono andato a fare dopo l'esperienza libraria, vale a dire il rappresentante editoriale, come aveva accennato Antonio nella biografia che ha letto. E lì ho avuto la fortuna di girare continuamente per tutto l'anno per la nostra bella terra e goderla a tutte le stagioni. E lì praticamente ho fermato quelle emozioni che la vista o le situazioni in cui mi trovavo mi ha così colpito. E più di una volta ricordo fermo passaggio a livello, prendevo sull'agenda carta e penna, buttavo giù due righe. Questi tre momenti credo siano stati determinanti per il mio scrivere di poesia. C'è una cosa da dire, che non sarei mai uscito, come dicevo prima, a espormi al pubblico se non avessi trovato chi mi ha dato il famoso calcio nel sedere e mi ha buttato fuori, famoso butta fuori o butta dentro. E con la partecipazione a un evento molto importante a Carano di San Marco, è iniziata un po' la mia, cioè allora c'era Zanzotto, c'era il De Mattei, c'era un sacco di personaggi ribellati, e mi sono trovato miserello proiettato in questa nomi altisonanti che effettivamente, vabbè, e là è partita un po' la mia avventura pubblica, ed è uscito poi Galaverna, e da lì piano piano non vi dico quello che ho sofferto i giorni della presentazione, non dormivo la notte, roba da me. Eri emozionato? Emozionato, sono sempre stato molto timido. E invece hanno fatto tanto successo. Sì, non è piaciuto. Galaverna si è esaurita subito, direi. Poi gli altri che sono venuti in diretto, perché mi piaceva... ne parliamo, facciamo una pausa. Va adesso. Bene, adesso facciamo una pausa. Benissimo. Allora, ci ascoltiamo la seconda canzone in programma, che è cantata da Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro dall'amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Ed eccoci di nuovo in studio con Emilio, al quale vorrei fare una piccola sorpresa, al quale penso non sia... Cosa succede? No, è una breve ma intensa recensione di un poeta della scuola salernitana, Giovanni Caso da Siano, in provincia di Salerno. È una chicca, adesso ascolta intensamente. Questa raccolta di poesie, questo resto di giorno, che si alimenta di un linguaggio semplice e nel contempo profondo e coinvolgente, tocca molte corde del sentimento umano, spaziando con i suoi versi così magicamente spontanei nei profondi recessi dell'animo. L'ho letto alcune volte e sempre vi ho trovato nuove vibrazioni, nuovi aneliti, nuove ansie di purezza. Oggi è difficile trovare poesie limpide come queste, sempre sorrette da un'idea di fondo, da uno schietto contenuto, mai lasciate all'improvvisazione o fumosi giochi linguistici. Mi pare che di meglio non si potesse dire. Bello. Sono senza parole, mi ha fatto sì, adesso la ricordo, perché ci siamo sentiti e siamo in contatto ancora con Giovanni, una carissima persona. E ti ringrazio di averla scovata. Queste sono chicche che servono per vivacizzare. Grazie. Bisogna sempre tenere tutto da conto. Esattamente. Emilio, io ho una domanda in serbo. Mi dica figliola. Allora, tu hai parlato del libro invisibile che dove hai partecipato a Cairano San Marco. Sì. Come sarebbe questo libro invisibile? Allora, a Cairano San Marco ha avuto inizio e luogo una fondazione, che è la fondazione di Villa Benzi Zecchini, che allora aveva come direttore, tu lo conoscerai, Bruno Termite. Sì. E tra le tante cose che questo vulcanico elemento ha messo in atto, è da ricordare per esempio la Sarmede, la mostra del libro per l'infanzia sua, teatro in villa l'ha iniziato lui, tante altre cose. Il teatro in villa l'ha iniziato lui? Sì, non lo sapevo. Bello. Sì. E è stato lui che mi ha invitato a questo evento che accennavo prima, dove c'erano questi grossi calibri, no? Libro invisibile era nato da come dicevo, faceva parte di tante attività che venivano fatte in villa. Raccoglieva, come dire, la produzione degli editori minori, qui non c'erano i grossi nomi di editori, Mondadori, certo. Bompiani o del diavolo, e veniva fatta questa mostra, e è andata avanti per alcuni anni e poi si è un po' interrotta, come succede purtroppo nel girare della vita, sì, certo, quindi, ma era una cosa molto interessante, molto molto importante questa, e direi grazie a quell'evento poi ci sei stato anch'io. Ho capito, bene bene, allora continuiamo con la nostra lettura? Ma visto che ci siamo direi bene, di sì. Bene, allora a te. A me, e come dicevo prima, ero e sono innamorato della nostra e della mia terra trevigiana, e l'ho, come dire, scoperta molti anni fa, in occasione della mia dipartita a Treviso dopo il bombardamento, quando sono andato a sfollato a Postioma e aiutavo la gente del posto, e questa è nata proprio in un momento particolare, cioè andando a arare i campi con le bestie, no? C'era questo calore della terra che appena appena arata, che mi ha fatto, mi sembrava le carezze di mia madre, infatti è nato Madre Terra. E anche odore alla terra? Sì, sì, sì, era proprio, adesso credo che il senso lo dia a questi pochi versi. Madre Terra, ho profondo amore per la terra, mia amica e madre. È entrata in me, nello scalzo tempo fanciullo, nel condurre i docili buoi all'aratro. Quel tepore di terra grassa aperta al vomere mi saliva materna carezza oltre il cuore. Giungerà il tempo in cui mi accoglierà nel suo grembo. Amorevole, amorevole madre mi custodirà paziente in attesa di resurrezione. E Gesi, adesso ecco, ti do un incarico. Questa è un pochino... Hai toccato che piaciuta la madre. È un pochino triste questa qui, vero? Sì, beh, insomma la terra che... Beh, vabbè, siccome che... l'evoluzione della vita, dai. Vabbè, allora, e allora cosa leggo? Sere, i rosari e litanie. Bella, bella e bella. Mite sera di maggio. Mi ritrovo solitario viandante lungo il viale deserto. Olezzano i pini che ricordano il mare. Uno sberleffo di luna dispone d'intorno arabeschi d'ombre. Canta ai miei passi l'asfalto bigio. Nell'intatto silenzio è di grilli appena il canto, è velato abbaiare di cani. Occhi di luce alle case e sommesse voci di domestiche agapi. Nel buio di un capitello occhieggia tremolo un lume. Sosto, al labbro una prece. Torna il mite maggio, tempo di rosari e litanie e di voci fanciulle al nascondino intente e a lucciole. Era timore il singulto della civetta. A tacere il verso funesto, alte grida e sassate, oltre i pini che ricordano il mare, la luna sprofonda in bambagia di nubi. Io nel tempo già mio. Grazie, Jesi. Grazie, 23 grazie, giugno sì. 2007, Ali di carta. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole. Non variopinti aquiloni stamane nel cielo, ma qualcosa di nuovo, anzi, d'antico. Volteggia leggero nel cielo un minuscolo aereo di carta e l'aria ha voci gioiose di bimbi e soffuso fruscio di passi nell'erba del prato. Ho seguito il volo e le grida con forte emozione. Ho affidato a quelle piccole ali sogni e ricordi bambini. Dai giorni di scuola rammento fogli strappati ai quaderni, piegati con gesti precisi a formare le ali, il muso, la coda. Risento scoppi di grida argentine di primi compagni di giochi, di lanci e perdifiato di corse nel cortile di polvere e sassi a seguire le piccole ali. Si giocava allora, e pulita era l'aria. Planate, cabrate, virate, l'atteso giro della morte tutto raccolto nel breve spazio del volo. Così la vita, nelle ali dei giorni. Purtroppo bello è questo finale, bello, bello, molto bello. Riprendo io? Sì. Allora, accennava prima al bombardamento di Treviso, e Via Carlo Alberto mi è rimasta dentro come mi è rimasta dentro Il Tempo Sfollato. E questo ricordo è La casa degli anni bambini. Bello questo titolo. La casa, sì, è venuta così. La casa degli anni bambini. La casa di Via Carlo Alberto è tra le mie mani quel variopinto balocco del tempo fanciullo, riemerso dalla scatola scrigno, gelosa custode di lacerti di infanzia, obliata nel fondo di un vecchio cassone. Via Carlo Alberto, civico 77. Della casa che ospitava i miei anni bambini e la voce e il canto di mia madre, giovane allora e bella, nulla è rimasto. È stata vampa di fuoco una sera di marzo del 1945. Non era primavera ancora. Una notte di sirene, di bengala, di bombe e mortali feriti su questa intatta parte di città, profanata un venerdì di passione. Ho tra le mani giorni fanciulli, lo slargo solare di via Carlo Alberto, l'asilo abborrito, il palazzo del Giasso, rioconvertite, vaghe sembianze di compagni di scuola e di giochi, mia madre. Tutto riemerge dall'album Memoria, geloso custode di luoghi e di cose, dei giorni sereni del tempo d'infanzia. Bella, bella. Adesso ne leggiamo un'altra molto bella, eh? Non tornerò al tempo di Aratri. Settembre. Il bosco è un sillabare di ombre e il vento un adagio d'organo. Fruga erba e siepi alla valle. Noccioli radi, vitalbe rovi, fremono al suo passo. Vago in solitudine per forre e sentieri. Mi duole questo giorno e al ricordo più mi ferisce il battito motore. Strazia padrone queste rive, arcane per silenzi e invisibili presenze. Non tornerò al tempo di Aratri, ma al rompere le gemme la scorza e all'erba più nuova. Tornerò quando il vento avrà bisbigli di primavera e il bosco si ricamerà di cielo e sarà un balbettio d'ombre il sentiero. Respirerò il silenzio e nell'andare di passi ascolterò risvegli di nuovi nati. Grazie Jesi. Cedo la parola a Antonio. Icona nei pensieri. Nel lento declinare del giorno pigre si allungano ombre. L'ora quieta dell'ave serutina batte ai ricordi e spontaneo al labbro è un requiem. Assorto oltre orizzonti terreni è viva memoria il tuo volto, madre, sorridente dell'infinito amore di ogni madre. Nel silenzio avverto flebile eco del saluto tuo nell'andare discreto del vento. Mi scorre tra i capelli, mi accarezza il viso come tue materne dolcissime mani. Non di mestizia né di rammarico mi è questa ora, ma di speranza e di gioia. Il tuo volto, viva icona nei miei pensieri, accompagna, madre, questi miei giorni di attesa e speranza. Bella. Allora, ci fermiamo un momentino per ascoltarci una terza canzone. E vada. Una canzone che a suo tempo, chissà perché, mi ha colpito. Sai che ci sono quelle cose che ti colpiscono così? Chissà perché. Allora, i Pooh con Io e te per altri giorni. Di nuovo in studio, Emilio. Ecco, questo volevo, se mi permettete, fare una piccola come dire puntata sul dialetto, perché effettivamente io sono venuto altre volte qui e ho presentato le opere dialettali che aveva ricordato Antonio nella mia biografia, che era Campane Pardò, Metaramesente, Scondicuco e Me pareva appena ieri, e quindi facciamo un giro a tre. Bene. E allora, Jesi, do la parola a te con a me. Non savea del vento. Mamma mia, che bella. Che da Scondicuco. Che da Scondicuco, beh, ma così Scondicuco sono stupende, sono simpaticissime. Va bene, non savea del vento. Sull'ora che more il sol, sentà sui scaini de una vecchia casa, poi incontra uno, un santo o un matto, non lo so. Io ci sarai intento ascoltar. O cosa aiuta, ma fermete, è il megafatto sottovoce. Sentete qua, ascolta. Senti tu? Senti tu sta voce? Asequia del vento. E il vento, el vien da distante, el conosce meraviglie di storie che il tol su e le porta in giro e le conta a chi le sa ascoltar. Mi col passa, me piace ascoltarlo. Me son sentare ente de u par un toco, tutto intento ascoltar. Sì, lo sentio il vento caressarmi il viso e i cavei, ma a sua voce non lo sentia. De certo l'usma il ciasso desti di, go pensa, me ga indurio un fia e rece. Mi stimo più vera un'altra storia. Forse non go pi il cuor de putel, fa quel mato o quel santo, e il vento non gavose per me. E affido a Antonio un ricordo trevigiano. Sì, Madonetta trevisana. Te vedo passando per via Campana e te seudo, pico e Madonna trevisana. Vecchia terracotta scunia dal tempo, postada su che corona storta che verse il portego scuro, de qua del ponte sul canal Buranei, tra Menegussi e Caseato. Un angoeto che ricordar fa a Venezia, vivo de Ciaco e Comarò, e femmine indaffarai a far spese per il disnar e a sena. El par un vivar de altri tempi, un vivar tutto trevisan che te senti e te godi, cunà dal ciacciarar discreto dell'acqua del canal. El par un sussurro de orazion e un saluto a ti, pico e a Madonna trevisana, no vista dai più, e che stesso te tiende occio sta città, e tutta a sosente. E io invece volevo ricordare, sono delle campane che adesso alle 7 della mattina non suonano più. Campane pardò. Certe mattine, ecco, cambia il tempo, arriva puntuale un concerto de campane, chiaro e limpido. Anche se limpido il giorno non sarà, e te dico, ascolta, senti che bello. E insieme beviamo il caffè appena fatto. Sentai sul letto, ascoltemo. Principio quelle de fontane, belle, argentine. Poi quelle de San Paè, buone, allegre. Se giunta qui a de Santa Bona, una sua perché che altre due si rotte. E sto concerto a tre. Nenina è sette di mattina e per un momento ne par che sia festa. Grande. Bella, bella, bella. Andiamo avanti. Andiamo avanti, sì. con il nostro resto di giorno. E quindi tocca sempre al nostro Emilio. No, do la parola a te stavolta, amico mio, sì. Zotis. Ah sì? Faccio un atto di cavalleria. Ah vabbè, che gentili questi signori. Mio Zotis, tramontato alle rive è il rosa coltico e di pesco, e il biancore di neve dai rami del negro ciliegio. A lievi mani di vento fremono minuti frammenti di cielo. I mio Zotis aprono all'estate l'oro dei ranuncoli e arcobaleni di corolle. Come attimo fugge il primo ramarro. E Antonio? Tripudio d'aprile. Arabeschi di rami a ricamare il cielo. I giorni della merla hanno parole di gelo. Il melograno è brillio come di neve e il leccio, il salice, il carpino. Di candida trine li ha vestiti la galaverna e più si esalta sul verde del lauro, del gelsomino, del bosso e tersità di cielo. Dal torpore invernale tronchi negri e spogli rami si inteneriranno. Nuova linfa aprirà la scorza a gemme nuove e l'aprile sarà tripudio di foglie e di fiori. È bella. Molto, molto solare, molto. Ecco, io invece ricordo un insetto che non si vede più, o raramente. Cetonia dorata. Su finissima trine di odoroso corimbo del fior di Sambuco, brillio verde rame e oro, immobile gemma. Raro, prezioso ninnolo, una cetonia dorata si culla a carezze di sole. Al tocco indiscreto, un fremito d'alitri spaurite. Svanito l'incanto. Si perde la mente a chiare sere di maggio del tempo fanciullo e a scoppi di grida di bimbe impaurite al vibrare improvviso d'elitre, di cetonie dorate, volar loro d'intorno prigioniere di un invisibile filo. Eravamo birbantelli. Sì. Adesso abbiamo... Comincio io, cominci tu? D'improvviso l'estate. Allora, l'estate. Tocca a me. Visto che tocca a te. Sì. D'improvviso l'estate. Boh. Mattino domenicale, ebbro di sole agostano. Il tocco ci coglie lungo ombrose fughe di archi ai Buranelli e il canale 9, col suo andare d'acque sommesso e frullo d'ali spaurite, sottofondo ai passi nostri, bramosi di desco e riposo. Oltre il canale, agghindata di pendolo verde e di fiori vermigli, casa Comisso affrescata di rosa. Dalle imposte dischiuse, improvviso un violino accende la quieta dell'ora. Silenzio d'intorno, tace l'andare dell'acqua, i passi nostri e il nostro parlare. Rapito ascolto. Vivaldi racconta l'estate. Destarsi come da un sogno, avvolti nel manto di note, riprendere in punta di piedi l'andare interrotto, l'ultimo arco, i salici e il ponte. Nello slargo di cielo un frullo d'ali lieve. E Antonio, un ricordo della campagna. Campagna a Morgano. Oltre la pieve rossa di cotto a Morgano, nell'abbraccio di un fico, un pruno e groviglio di rovi, un capitello scolora i suoi santi. Innanzi è il Sile. Alla sponda un tratturo piega a ponente tra ciuffi di canne, salici e sambuchi odorosi. Il silenzio di uomini e motori si fa sinfonia di uccelli e stormire di fronde. Nel ritmare del cuculo, lo scatto della lepre e il tonfo della trota argentata, nello scorrere uguale del Sile, che fiume non è ancora. Cielo, nubi, alberi, canneti, le acque del fiume, lo slargo dei campi, i casolari e lontane montagne azzurrine, tutto ha i colori del Ciardi. Bucoliche visioni di un passato fissato nei quadri, ancora oggi presente. È proprio così quella, sì, quella campagna nostra. Decisamente. Allora, ascoltiamo un'altra canzone? Ma no, guarda, volevo dedicarti qualcosa, se mi lasci, poi sentiamo la canzone. Ah, è vero che è vero. Perché... Emmy, chi sei? No, scusami. Esatto. Sì, questa la conosci, ma te la dedico molto volentieri. Va bene. Ma il cuore ha occhi. Osservo il tuo andare, giovane donna, guidata dal tocco oscillante della mano bastone. Incedi spedita, sicura nel passo, lungo vie e portici. Nell'ombra delle pupille, il sorriso. Non so di te, della tua vita, dei tuoi sogni. Per te, fiori, cielo, visi di bimbi, hanno unico il colore. Ma il cuore ha occhi e vede. Palpita attento a voci, suoni, passi. Vede quello che a noi è celato. Nel buio di giorni, serenità ti conduce. Bene, no, una splendida, bella, devo dire. Bella. E adesso ci possiamo ascoltare l'ultima canzone, che perché sì, siamo proprio addirittura d'arrivo. Allora, l'ultima canzone è intitolata Arriverà ed è cantata da Imbodà con Emma. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai. Ma si sveglierà tristezza, dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, eccoci di ritorno in studio con il nostro poeta per così alcune considerazioni finali. Prego Emilio. No, io che dire, vi ringrazio, è stata un po' una sorpresa e che a me insinganaggesi di essere qua stasera in questa trasmissione. Ne sono molto contento, io spero di aver annoiato gli ascoltatori, le ascoltatrici. Non c'è dubbio. E vorrei dire e lanciare un appello, perché bisogna trovare, senza scale l'orbono canta, sì. E quindi avrei in preparazione vero. Perlomeno un altro paio di raccolte, ma così caspiterina, sì. Se non si trovano i conquibus, restano là nel cassetto, certo. Non per cattiva volontà, ma per ma, motivi ma, tecnici, diciamo. Causa Monti. Io vi ringrazio tanto, saluto i radioascoltatori. E la Jesi, Antonio e Eddie per la diremo così la disponibilità, Antonio per la sua professione e Jesi per la sua simpatia. E noi adesso non è chi voglia chiudere, per spetta a voi. E noi tanto vi saluto. Vi ringraziamo, ringraziamo naturalmente, ringraziamo e salutiamo la Katie. Certo, salutiamo la signora Katie. Esatto, e niente, ci sentiamo la prossima volta. E nel frattempo diciamo che la poesia è proprio un distillato di vita, secondo la mia, una definizione che do io. Ecco, comunque così, un distillato di vita. E sì, quindi ci difatti, fa sempre piacere. Difatti. Emilio, ti ringraziamo tanto e non perdiamo mai la speranza, perché speriamo di avere ancora uno spazietto per presentare qualcosa di nuovo, vero? Va bene? D'accordo, grazie, lo accetto come augurio e alla prossima. Alla prossima. Allora io saluto come sempre con molto affetto tutti gli ascoltatori e anche le ascoltatrici e vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.